Non voglio neanche perdere un minuto senza te. Divido istanti in pezzi e li porto via. Vorrei fermare il tempo, donarti qui l'eterno. Raccogliere una lacrima per poi curare un fiore. Vorrei ballare in mezzo a questa strada insieme a te. Baciarti sotto la pioggia e stringerti un'altra volta. Vorrei fermare le macchine, la gente e i rumori per bloccare quello che sento. Urlarti quanto ti sento. Zero passi da te, che sei parte di me. Quando sto con te ogni problema si volta. Conosci la scena. Zero passi da te, che sei parte di me. Sento che mai niente, niente, niente cambierà quel che sei. Non voglio neanche perdere un minuto senza te. Divido attimi di sole e li metto in tasca. Venderti il mio amore dandoti un anello. Consegnarti il cuore senza reso per l'eterno. Vorrei ballare un lento qui per sempre insieme a te. Gestire tutta la pioggia, fare una danza con ogni goccia. Vorrei fermare le macchine, la gente e il destino per dirti quello che sento. Qui dentro un gran casino. Zero passi da te, che sei parte di me. Quando sto con te ogni problema si volta. Conosci la scena. Zero passi da te, che sei parte di me. Sento che mai niente, niente, niente cambierà quel che sento. Devo solo dirti che rimango accanto a te. Che ogni cosa ti appartiene, anche ciò che non mi conviene. Volevo solo dirti che mai niente ci ha diviso. Che ogni sbaglio io l'ho amato e ogni cosa è per te. Zero passi da te, che sei parte di me. Quando sto con te ogni problema si volta. Conosci la scena. Zero passi da te,